Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Di Rosita Celentano e Angelo Vaira. Hello. Buongiorno. Buona domenica, cari. Buona domenica. Allora, non perdiamo tempo. Dobbiamo assolutamente fare brava, la nostra classifica. Brava, Celentano, mi vada sul pezzo. Appunto, la classifica delle 11 cose che danno fastidio, che forse fai, che danno fastidio ai cani. Allora, prima di dirvi qual è la cosa di oggi, vi faccio un breve riassunto. Il primo punto era usare le parole più che il linguaggio del corpo. Il secondo punto era abbracciarlo forte, perché potrebbe non gradire, ovviamente, o fargli pat pat sulla testa. Era il terzo punto. Il quarto punto, guardarlo fisso negli occhi. Il quinto punto, vivere senza regole. Non va bene, ovviamente, come non va bene per i bambini. Il sesto punto, obbligarlo a interagire con cani che non gli piacciono. Già la parola obbligarlo. Settimo punto, portarlo fuori solo per fare pipì. Quindi una pipitina e poi si corre subito a casa. Ottavo punto, tenere il guinzaglio troppo stretto. E per chi voglia più informazioni su questi punti già trattati, no? Che fanno un parallelo tra cane ed essere umano, quindi ci siamo anche poi rivolti, ma noi in una situazione simile cosa faremmo? Però chi voglia approfondire può andare ad ascoltarsi i nostri podcast sul sito di Radio 24. .it. Ma il punto 9, che è quello che trattiamo oggi, è avere un atteggiamento negativo. Negativo. Che significa? Che i cani ovviamente non avvertono solamente la tensione quando noi, per esempio, lo portiamo fuori e teniamo il guinzaglio teso, tirato. Tu mi insegni molto. Come no? Lei, intanto, e quello è anche un meccanismo di neurone specchio. Tanto che in un'intervista a Marco Iacobone, no, che è un luminare dei neuroni specchio, che ho fatto, devi avere un atteggiamento positivo. Però nessuno lo fa prendere. Con quella cosa del pensiero positivo che a me sta sulle balle, no? Perché il pensiero positivo è fai finta che vada tutto bene. No, bisogna sentirlo dentro, ovviamente, deve essere una cosa che come parte da dentro. Cioè, se io come ti chiedo, Celentano, se io ti chiedo, oppure se chiediamo a Peter, no? O ad Emanuele Brignoli, anche dall'altra parte, se io chiedo. Come fai tu ad essere felice? Tu che mi rispondi? Quanto tempo ho? Stanno pensando anche il nostro Emanuele e Peter. Allora, no, aspetta, vorrei sapere la risposta. Non devo avere un atteggiamento negativo. Rifammi la domanda. Come fai ad essere felice? Sai come renderti felice? Sì, come rendermi felice? Sentiamo. Faccio tutte le cose che a me piacciono. Tipo, mi metto. La prima cosa che farei io è mettere una musica che mi rallegra, che mi ricorda cose belle. Oppure mi metto a cucinare, o mi metto a mangiare patatine. Perfetto. Abbiamo un elenco di cose. Peter, tu come fai? Mangiare maccheroni. Emanuele? Andare in montagna. Allora, queste sono tutte cose lecite, bellissime. Ma abbiamo cannato tutti. No, non è che si è cannato. Bisogna rendersi conto di questo. Normalmente la gente scambia la felicità permanente per quella impermanente. Cioè, mi faccio condizionare. La mia felicità è condizionata da quello che c'è attorno a me. Cioè, toglimi la preoccupazione del lavoro, toglimi la crisi finanziaria, voglio avere più soldi, voglio andare in montagna, voglio mangiare bene, eccetera, eccetera. Questo è quello che mi rende felice. Tutto questo dipende da condizioni esterne. Mentre quello che invece ci suggeriscono gli antichi filosofi, come la filosofia greca, piuttosto che le vie spirituali, è che c'è una sorgente interna di felicità che può essere riscoperta. Alla quale non attingiamo. Tutte le vie spirituali invece invitano a fare un lavoro su di sé, per cui elimini un po' tutte le zavorre, così che questa felicità spontanea sorga da dentro, senza che ci sia necessità di fare delle cose esterne che puoi anche farle, no? Nessuno ti impedisce, certo, di mangiare bene, potrebbe essere che le cose che abbiamo elencato noi ci aiutano a tirar fuori le cose da questa sorgente interna. Possono essere un mezzo, ma se tu sei legato, cioè se l'unico modo che hai di essere felice è cambiare le condizioni esterne, purtroppo non sai che cos'è quella sorgente, non hai avuto pensare delle cose che possono renderci felici, il nostro chiacchiericcio interno, la posizione del corpo che noi assumiamo e le immagini che noi mettiamo nella nostra mente possono condizionare la nostra felicità. Però possiamo andare anche più a fondo, appunto, con delle vie spirituali che noi, sai, invitiamo sempre i nostri. Sì, certo. Sì, perché no, influenzano il nostro però, campo. Allora, adesso è molto importante questa cosa, perché noi in relazione siamo in due, noi non possiamo aspettarci che cambi sempre il cane che deve cambiare, il cane che deve imparare, ma noi in questa relazione, come se siamo in relazione, come nella relazione fra una donna, deve cambiare lui, deve cambiare, oppure prima deve cambiare di tutto, lei, deve cambiare sempre io, qualcun altro. Sì. Sono d'accordo, prima di tutto dobbiamo cambiare noi per vedere il cambiamento negli altri, per far sì che gli altri possano star meglio, godere della nostra centratura emotiva. Detto ciò, vi ricordo la nostra mail, chiedimi se sono felice, @radio24.it, e adesso ci... Ma fra poco il traffico. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Senti, muove. È felice Celentano? Io sono felicissima. Poi da quando facciamo questo programma in radio siamo felicissimi. Va tutto bene, va bene, la gente piace. Diamo un buon servizio, un buon contributo, informazione. A proposito di informazione, tu prima hai menzionato gli animali sociali. E spesso si sente dire: perché gli animali sociali, noi animali sociali. Allora, dica se animali sociali... Quelli che vivono in gruppo, generalmente possiamo dire questo, no? Io sono molto sociale. Sinteticamente, tu sei molto, hai una prosocialità molto alta, no? Ti piace molto, ma l'essere umano è un animale sociale, no? Ok, noi il cane è un animale sociale. Diamo senso alla nostra vita attraverso le relazioni. Il cane è un animale sociale, il gatto è anche un animale sociale, al contrario di quello che si pensa, perché vive in colonia. Però la differenza tra cane e gatto è che il cane ama risolvere problemi con noi. Mentre il gatto è solitario da questo punto di vista. Quando deve andare a caccia del topo, quando sono deve fare... Non devi dargli tu troppo. Tu sei un po' gatto. Sono un po' gatto. È un po' gatto. Forse un pochino. Senti, ma quali sono gli animali non sociali? Cioè, per esempio, la tigre non è un animale sociale. Ah no? Eh no, perché non vive in colonie, non vive in gruppo, salvo il momento dell'accoppiamento, piuttosto che quando deve allevare i cuccioli. È facile così. Però per il resto lei ama star da sola, cioè non devi rompere le palle. L'accoppiamento per forza deve essere un attimo sociale. Non devi... Se no fa, come si dice, fa autoerotismo. Sì, appunto. Scadiamo sempre in questa roba. Così, in queste pillole. No, però è importante questa cosa qua, perché il cane, per esempio, vive con questa aspettativa di fare delle cose assieme, no? Se tu un cane te lo vivi soltanto per affetto, te lo metti soltanto sul divano, gli fai soltanto le coccole e lo lasci lì, purtroppo ti perdi un pezzo molto importante della sua dimensione di essere vivente. E soprattutto lui ne soffre. Lui ne soffre, sì. Ha proprio bisogno di... È come se quello ti guarda e ti dice, e quindi... facciamo qualcosa assieme. Quindi prendere il cane e parcheggiarlo in casa, parcheggiarlo in giardino se uno ha il giardino. Ma non soltanto quello, se io col cane ci faccio soltanto una passeggiata, se lo accarezzo soltanto e basta. Cioè sì. Il cane dice facciamo qualcosa. Se vuole essere che parte faccio, della tua vita. Quante volte i cani ci guardano? Allora no, morfine quando ti chiede di giocare. Cioè loro dicono facciamo un'attività assieme, cooperiamo. Il cane è un cooperatore sociale pazzesco. Adesso io fuori mi sto dicendo facciamo qualcosa. Vorrebbe cooperare con me a mangiarsi una brioche. Ecco, per esempio. Non abbiamo capito proprio bene questo però aspetto. Però si è mangiati i pinoli fino adesso, perché anche il mio cane... Senti, a proposito di collaborazione... Dobbiamo parlare parliamo di un cane che è veramente un cane leggendario italiano, perché veramente fa un lavoro pazzesco. E abbiamo con noi in linea un signore esperto di questa razza così particolare. La razza è il pastore maremmano abruzzese. Parliamo oggi con Walter Grossi. Buongiorno. Buongiorno Walter. Buongiorno. Ecco, allora Walter Grossi, devi sapere, Celentano, che... Dica. Il responsabile del settore lavoro, quindi non a caso con quello che ci stavamo dicendo, settore lavoro del circolo del pastore maremmano abruzzese. Beh, fantastico. Giusto Walter? Sì, esatto. Allora, che vuol dire lavoro? Cioè, il settore lavoro del maremmano abruzzese, che cosa fa? Di che cosa si occupa? Beh, soprattutto dalla valorizzazione di quella che è, come dire, di quello che è stato storicamente il compito e l'attitudine principale di questo cane, e cioè la protezione del bestiame domestico da reddito. La protezione da che cosa, cioè, principalmente? Per esempio da lupi? Dai grandi predatori carnivori in particolar modo. Ma posso fare una domanda io veramente da ignorante, nel senso, voglio dire, loro proteggono il gregge, quando si vedono i pastori che vanno, lasciano le pecore libere, in questo senso proteggono esatto, il gregge? Esatto, questo è un cane che si occupa della protezione del gregge, non della conduzione. Non della conduzione. È molto importante fare questa distinzione, infatti. Perché i conduttori sono cani che agiscono dopo un input umano, e in stretta relazione con l'uomo. I cani da protezione invece sviluppano un particolare rapporto col bestiame che... lato grazie anche alle iene, no? Malamente. Allora, ecco, visto che abbiamo con noi un esperto, no, di questa cosa, cosa ne pensa lei del servizio e che cosa invece bisognerebbe assolutamente far sapere a chi ci ascolta? Beh, la mia convinzione è che la presenza dei grandi carnivori nell'ambiente naturale sia un elemento di grande ricchezza in termini di biodiversità, a cui non si deve assolutamente rinunciare, ma cercare tutte le possibilità affinché sia compatibile con il resto delle attività umane, con le attività umane. Di conseguenza considero il servizio delle iene fortemente fuorviante, diseducativo, perché non ha fatto altro che alimentare un allarmismo che è già troppo diffuso. Perché quello che è successo con il servizio delle iene è che loro hanno sottolineato i disastri che fanno questi lupi e gli ibridi di lupo, ho capito bene? Certo, hanno sottolineato i disastri, ma si che sono vergogna. Persino spinti ad intervistare un bracconiere, insomma. Sì, no, ma poi tutto questo per giustificare allora andare a cacciare i lupi, come adesso che vogliono sterminare centinaia di cinghiali. Sì, diciamo che è in atto un ripensamento che coinvolge anche settori del mondo ambientalista rispetto al tema della protezione assoluta. Io non ho un'opinione precisa su questo argomento, benché insomma dal mio punto di vista si deve veramente cercare di non arrivare a quella determinazione. Sì. Anche perché sappiamo proprio storicamente che proprio il pastore maremmano abruzzese è una delle soluzioni più efficaci, no, a questo problema. Sì, tra le razze da protezione che sono diffuse un po' in tutta l'Eurasia, direi che è il cane che più si adatta a lavorare, a svolgere questa funzione in un ambiente antropizzato e per certi aspetti civilizzato, perché esistono anche razze che provengono dall'est europeo, asiatico, dall'Asia, che svolgono la medesima funzione, ma che proprio perché cresciute in un ambiente più, come dire, più selvaggio, sì, e più duro, forse sono un pochino fuori scala o comunque insomma, sì, possono presentare delle controindicazioni fastidiose. Certo, invece una razza che è nata e cresciuta storicamente proprio in Italia, proprio in Abruzzo anche, no? Abruzzo, Maremma, anzi poi ci deve aiutare a fare questa distinzione, no? Perché tante persone ci dicono no, questo non è un pastore maremmano, questo è un pastore abruzzese. No, non si dice così. Il cane è il medesimo, assolutamente il medesimo. È lo stesso. Il doppio nome è un, come dire, è un portato storico che deriva dal fatto che per quanto la culla, diciamo, della diffusione di questo cane sia stata l'Italia centro-meridionale, dal Tronto alla Lucania, con il centro, sì, l'Abruzzo senz'altro, dove era molto più sviluppata la città della transumanza, venne poi utilizzato per la guardia nei casali e nelle fattorie della Maremma e della Toscana, e dai nobili toscani poi introdotto nella cinofilia ufficiale. E da lì questo, come dire, questo nome, questa definizione attraverso il doppio nome. Sì, sì. Quindi un cane che si occupa... Che crea molta confusione, ma in realtà il cane è il cane bianco da pecora, sì, italiano. Sì. Allora, vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori che cos'è la transumanza e qual era la funzione del maremmano, perché è una cosa straordinaria, sì, questa, infatti, secondo me. Beh, la funzione di tutti i cani da protezione, in particolar modo di quelli da montagna come il nostro, è quella di assicurare la protezione del gregge durante la fase di alpeggio o monticazione, laddove è più facile che vi sia la presenza del predatore. Tuttavia, anche durante la fase in cui si spostavano insieme alle greggi, soprattutto nel Savoia delle Puglie piuttosto che nella Campagna Romana, svolgevano comunque una funzione utile nei confronti di altri tipi di predatore piuttosto che dell'abigeato. Io ve lo chiedo una cosa: com'è che fa a proteggerlo il gregge? Cioè, come il lupo lo vede e quindi in automatico non si avvicina perché c'è il pastore maremmano? Oppure un buon cane da protezione, in particolar modo il nostro, deve sviluppare tre caratteristiche. Deve essere un cane assolutamente, come dire, affidabile e affiatato con il gregge, quindi non deve manifestare nessun tipo di aggressività verso gli animali che gli sono affidati in custodia, deve sviluppare una certa attenzione o vigilanza e deve assumere un atteggiamento protettivo. Queste sono le tre: l'affidabilità, la vigilanza e la protezione sono le tre, come dire, i tre elementi chiave che questi cani facciano bene il loro lavoro. Che viene svolta in maniera assolutamente istintiva, quindi non riceve nessun addestramento questo cane. Attraverso una socializzazione precoce che avviene nella fase di imprinting, quindi io prendo il cucciolo e lo metto in mezzo al gregge con gli altri cani che osservano. Allora dovrà stare a contatto con la specie che poi a cui si dovrà dedicare in termini di protezione, e anche con cani adulti più esperti, certamente. Comunque è una forma di socializzazione precoce che avviene attraverso l'imprinting. È fantastico. E la socializzazione verso l'uomo deve comunque essere contemplata dentro questa fase di formazione, ma non deve essere eccessiva. Perché certo, cane deve, perché il brigante che c'era una volta me lo devi tenere via. Esatto, deve preferire. Senta, la compagnia. Walter, manca soltanto un minuto e mezzo. Io voglio chiedere, ma alla luce di tutte queste caratteristiche, no, di questo grande cane, lei che cosa ne pensa di chi dice: mi piace il pastore maremmano abruzzese e me lo tengo a Milano in appartamento? Si può fare o no?

A volte basta accendere la radio per ritrovarsi comodamente seduti al cinema. Sa perché mettono le maschere d'ossigeno sull'aereo? Per poter respirare. L'ossigeno ti fa sballare. Una storia speciale che assomiglia un po' a un film, un po' a un romanzo e un po' a un ricordo personale è qualcosa di unico che può arrivare solamente attraverso la radio. Ehi, bentornato a casa, Vic. Grazie. Che effetto fa la libertà? Piacevole. Sembra niente, ma è proprio così. Audiogrammi Reloaded. Una storia come non l'avete mai ascoltata. Di Paolo Corleoni e Laura Faggin. Sabato alle 15 e domenica alle 23 su Radio 24. E in podcast su radio24.it. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Fantastica, io adoro questa sigla perché si presentano sempre delle persone meravigliose. Oggi ho il piacerissimo di presentarvi Enrico Montesano. Hola, buongiorno. Ciao Enrico, non sai la felicità nell'averti qui alla nostra trasmissione. Grazie, sei carina, ti ringrazio, grazie a tutti per l'ospitalità. No, ma guarda, allora, a parte vabbè che sappiamo tutti, io ti seguo veramente da piccina, grande attore, mi è sempre piaciuto il modo che hai tu di fare, sempre molto garbato, educato, però sempre anche prendendo delle posizioni precise, come per esempio in questo caso, per quello ti abbiamo cercato. Abbiamo chiamato per gli animali, ma poi voglio dire io una cosa, no? È la prima volta che parlo con Enrico Montesano. Questa trasmissione si chiama Chiedimi se sono felice, oggi siamo occupati anche di quanto sia importante per i nostri cani essere noi ad essere felici, no, per loro, perché avvertono le nostre emozioni. Sì. Beh, Enrico Montesano è uno che ha regalato felicità agli italiani, no? Perché con i suoi interventi, film. È molto carino quello che dite. Spero di riuscirci. Quello è il compito di noi attori, che come sai bene, non so chi dicesse questa bella frase, dice noi attori scriviamo sull'acqua. Però speriamo di rimanere nei cuori di chi ci vuol bene e ci viene a vedere. È così. Noi dobbiamo solo regalare 2 ore di spensieratezza, di serenità. Ecco. Beh sì sì, tu per esempio sei uno di quelli che ci riesce, c'è sempre riuscito veramente. Alla le persone hanno tanti problemi nella vita. È vero. Poi io dico sempre, senza esagerare, perché ci sono dei colleghi che esagerano, ah che bel mestiere che fai, no, anche il nostro mestiere c'ha dei lati negativi, però una cosa abbiamo scelto di farlo, e questo già è un grande opportunità, dono, una grande fortuna. Sì, infatti. Ma noi possiamo farlo. Quante persone devono fare un altro lavoro perché bisogna anche portare, no, il pane a casa. Sì, tu dici non tutti possono fare quello che vorrebbero fare. Di mestiere, certo, a volte volte si accetta un lavoro perché bisogna lavorare, però insomma noi che facciamo questo mestiere l'abbiamo scelto, riusciamo a farlo, e di comunque questo ringraziamo la buona sorte. E comunque io ci tengo sempre a dire che la gente dal di fuori pensa che il mestiere dell'attore o del cantante nel mondo dello spettacolo sia una cosa facile, che vai lì, fai 2 battute e te ne torni a casa. Brava. Ma c'è dietro un lavoro faticosissimo. No, cioè, perché ho detto, alcuni nostri colleghi esagerano un po', ah che bello, un mestiere meraviglioso, come se tutto fosse rose e fiori. No. Anche il nostro, come tutti, certo, non siamo all'alto forno. No, certo. Non sono in un tombino a scavare nella melma. Certo. E infatti ho grande considerazione per queste persone che fanno questi lavori e si sacrificano, no? Sì, sì. Perché dovremmo chiedere a loro se sono felici. Sì, bisognerebbe trovare sempre un pezzettino di felicità in tutte le cose, anche quelle che magari non spero scegliamo. Spero che la trovino anche loro. E quindi se noi riusciamo con una canzone, con una poesia, con uno spettacolo, a regalare a loro che fanno questi lavori così usuranti e faticosi 2 ore di sollievo, di divertimento, beh, meno male, almeno non è in vano quello che facciamo. Sì, dai. No, sì, infatti, sì. Noi ti abbiamo cercato perché io, che ti seguo appena posso sempre, ti ho seguito anche in altre interviste radiofoniche, hai parlato spesso di scelte tue pro animali, in difesa di animali, poi ci spiegherai tu di quell'animale in modo specifico, anche legato per esempio a un cambiamento di alimentazione, vero? Sì, io ti devo dire questo sinceramente, ho iniziato per un motivo mio personale di salute e fisico, di igiene alimentare. Ho cominciato a eliminare delle cose. La carne, ti devo confessare, non l'ho mai amata molto. Sono d'accordo con quello che diceva Plutarco, che noi non siamo carnivori. L'uomo nasce raccoglitore. Certo. Prima di tutto, sì, raccoglieva bacche, radici, frutti, poi piano piano ha assunto la posizione retta, quindi è riuscito anche a raccogliere i frutti dagli alberi. Dopo molti ere è diventato cacciatore. Però, insomma, no, non soltanto, adesso è importante dirlo perché molti dicono che l'uomo era cacciatore e raccoglitore, ma la caccia si limitava all'assunzione di un 15% di calorie derivanti dall'animale. Con gli strumenti che si è costruito dopo qualche era, perché all'inizio le mani c'erano e basta. Certo. E Plutarco dice che noi non abbiamo i denti adatti per la carne, nemmeno l'intestino, né lo stomaco. Infatti. Non abbiamo uno stomaco che produce enzimi, eccetera. E poi noi la carne la mangiamo molto lavorata, pasticciata, perché non è che mangiamo la carne rossa cruda. Io quindi quella non l'ho mai amata, mangiavo la carne pasticciata. Ma non è il problema della carne, il problema mio è stato la mattina con quei lieviti, con quel burro, con quelle cose, ho cominciato a eliminare quelle cose che mi davano proprio fastidio alla digestione. Poi ho eliminato del tutto la carne, il pesce invece per un motivo etico. Io sono sempre stato amante dei pesci, quando mi dicevano vieni a pesca, dico, mi faceva un'impressione anche a me vedere quel pesce infilzato con l'amo. I pesci non si lamentano, ma soffrono. Certo. Soffrono, li prendono, li fanno morire asfissiati. Poi c'è questa razzia, arrivano i motopescherecci enormi, i giapponesi, non c'è, cioè voglio dire, è tutto diventato così intenso, sì, industriale, che danneggia poi il sistema, no? Assolutamente, sì. Beh, Rifkin aveva scritto ecocidio parlando appunto dei danni che fanno gli allevamenti intensivi, quindi, ma difatti il punto è, non è come qualcuno dice che si arrabbia con i vegetariani. Io sono diventata vegetariana da 3 anni per una scelta etica inizialmente, perché ho detto non voglio più contribuire alla sofferenza degli animali. No, scusa se ti interrompo, ci sono diventato dopo anche per quanto riguarda il resto, quindi sono contento ora che nessun animale viene ucciso per farmi mangiare. Esatto, infatti. Però, insomma, però non sono un talebano, un fanatico. Voglio dire, ognuno decide di fare quello che vuole. Io poi per la mia salute e anche per un motivo etico, come dicevi tu, ora ho consapevolezza e non lo voglio fare. Ma però guarda, non che, ci accusano, ecco, vedi? Sì, ma guarda, ci accusano perché devono cavalcare un'onda, perché fa parlare, fa notizia, no? Fa figo fare. Hai visto quell'articolo? Perché c'è un'informazione che va contro, perché una certa rivoluzione alimentare, uh-huh, i vegani la stanno mettendo in atto. Ma scherzi, abbiamo risparmiamo ogni anno 400 milioni di animali, ecco, la vita di 400 milioni, io vegetariano, c'è un certo impatto. Io che sono vegetariano, capisci, faccio consumare meno acqua, meno concimi, meno pesticidi, certo, perché dobbiamo produrre meno fieno, non mangio le uova, quindi non bisogna torturare le galline, no, perché debbano produrre per forza. Ma difatti quello che dico io, poi ognuno ci deve essere informazione, consapevolezza, e poi ognuno fa le proprie scelte. Di base a me piacerebbe che non esistessero più gli allevamenti intensivi, che le mucche stessero libere in un prato al pasto, le galline libere, quello che producono si divide per il fabbisogno. Invece purtroppo... hai toccato un tasto che mi sta a cuore, un tasto dolente. Ti volevo dire invece di quella notizia, perché c'è un'informazione che tende a denigrare, di quella coppia di genitori che si sono rifiutati, la mamma si è rifiutata di allattare il figlio, hanno detto coppia vegana, ma no, assolutamente il contrario. Ma no, certo. No, ma non c'entra niente, esatto. I vegani dicono, anzi, che la mamma deve allattare il figlio con il suo latte finché ne ha bisogno, perché poi naturalmente anche alle mucche il latte finisce. Ma no, ma poi scusami Enrico, allora le devono ridare di nuovo per fargli fare altro latte. Questo e mi così sa... continuano finché ce la fanno. Sì, questo mi sa molto di chi vuole a tutti i costi attaccare una categoria, sì, prende l'estremo. Ma quelli sono due genitori scriteriati, perché nessuna, esatto, mamma vegana rifiuta il proprio seno del proprio latte, no, al infatti, bambino che ha appena fatto. Ma poi quando il latte finisce, il bambino non ne ha più bisogno, e seguiamo i cicli della natura. Ma poi, come giustamente ci ha fatto osservare il dottor Berrino, che io e Angelo andiamo, esatto, spesso alle sue conferenze, è favoloso, anche sono contenta anche tu lo conosci. Lo conosco, sì, l'ho letto. Lui giustamente dice: ma non so, noi siamo una specie animale che, finito lo svezzamento, continua a bere latte di un'altra specie animale. Ci sarà... Ma che non serve? Infatti, no, non soltanto non serve, quello lì è un fluido che serve per far diventare un vitello enorme nel giro di pochi mesi. Se quel fluido tu lo trasformi in formaggio, lo trasformi in yogurt, si tratta sempre di quel fluido lì. È ovvio che quando tu lo assumi e sei un adulto, poi ti vengono delle peggiori degli effetti collaterali. Sai che ho letto in un libro molto carino, che adesso non mi ricordo quale, che c'era un professore americano che segue, vegetaliano anche lui, che dice, te mo ci devi spiegare vegetaliano. Perché vegetaliano e non vegetariano, ci stai facendo incuriosire. Perché in inglese vegetalian. Vegetarian. E allora dalla contrazione loro in vegetalian è venuto vegan, però insomma i vegetali sono con la L, sì, vegetali sì. Ha ragione, comunque, è un vezzo, va, perdonatemi sto vezzo, sì, sì. Certo, una certo. Minchioneria, ti perdoniamo forse, tutto, vabbè. Però tipo, lui diceva che noi mangiamo, l'uomo mangia le mucche, insomma i vitelli, che si cibano di erba. Mangiamo direttamente l'erba. Esatto. Senti, infatti, ma senti, invece una cosa che a me è piaciuta tanto quando ci siamo sentiti al telefono, mi hai detto che tu difendi i maiali. Ma i poveri maialini, sai che una volta a Milano andai con una bella moto di cui ormai non posso più cavalcarla perché... L'Harley? Il simbolo loro era il maialino. È vero, io il di maialino fatto... rosa. No, non lo sapevo. Sì, sì, sì, il maialino rosa. Sì, sì. Il simbolo degli arlisti. Il circolo di Harley a Milano, okay. Col maialino rosa. Sì, però, c'era anche dire, il ristorante perché... che si chiama Vecchio Porco. Ma il maiale, sai. Bellissimo, si mangia da Dio, eh. Ma lo sai, Borelli, questi sono animali intelligentissimi. Vero. Sì. E alle volte c'è una certa crudeltà nella macellazione, insomma, a me spiace. No, alle volte. Poi, comunque, guarda, ci sono dei würstel di verdure vegani che sono buonissimi. Sono d'accordo. Comunque, volevo solamente capire, sì, tu me l'hai detto per una questione di... Ma tu hai influenzato qualcuno in casa poi con... Adesso mio figlio Michele, che ha recitato con me nel Marchese del Grillo, faceva il ruolo del capitano Blanchard, che è un bel ragazzo, altre volte, che fa sport, adesso piano piano lui sta eliminando la carne e ha detto che si sente meglio. Eh sì, certo. Perché la digestione non ti blocca per 4-5 ore, non diventa la funzione più importante del giorno, digerire. No, mangiamo più leggero. Ieri, per esempio, è stato lui a portare delle... polpettine di verdure vegane. Beh, vedi. Ha cucinato. Noi abbiamo intervistato il campione di rugby. Di tofu. Infatti. Senti, Enrico, intanto grazie per questa testimonianza, ma tu sei in giro al teatro adesso, stai facendo qualcosa? No, noi abbiamo finito con il Marchese del Grillo e adesso stiamo progettando e pensando cosa si fa. Prossimo progetto. E se si riprende la prossima stagione, vedi come anche il lavoro dell'artista segue dei ritmi naturali, no? C'è un'espansione e una contrazione, come respirare, certo. No? Quindi c'è un momento in cui tu ti dai e fai tutte le tue tournée eccetera, certo. C'è un momento in cui ti ritiri. Ottimo, e mi piace questa osservazione calzante. Adesso è il momento in cui siamo in rilassamento, ma stiamo anche incamerando. Sì. Cioè io leggo, studio, vado a vedere qualcos'altro, certo. Poi per prepararmi alla prossima, no? Come le stagioni. Senti, poi l'anno prossimo verrà... Io ho debuttato a 50 anni a teatro, sono una pazza scatenata, scrittrice. Ricordiamoli che qui, a proposito, chiedimi se sono felice, qui la Celentano, no? è attrice in una commedia che si chiama Qualche volta scappano. Qualche volta scappano. Chi scappa? E parla di un cane, di un cane che si legge l'amore di marito e moglie che scappa, che e loro poi si interrogano su se stessi, cosa abbiamo fatto, la prospettiva del cane. Questa cosa, la storia del cane, mi piace molto. Io voglio bene ai cani, voglio bene ai gatti, però volevo dire, tutte le persone che amano i cani, se facessero un piccolo sforzo e pensassero anche agli altri animali che non sono di serie B. Assolutamente sì, sono tutti uguali. Concordiamo. Dove c'è vita c'è lo stesso bisogno di rispetto. Il mondo della prospettiva del anche cane. I poveri gallini, i poveri maialetti, i poveri pesciolini. Sì. Grazie Enrico, sei stato veramente grazie fantastico. Grazie Enrico Montesano. Grazie mille. Buon lavoro. Grazie. Ciao. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Io sono contentissima, oggi abbiamo parlato veramente con Enrico, mi ha fatto un sacco piacere sentirlo, ci ha detto un sacco di cose interessanti. E a proposito, visto che lui ha menzionato l'alimentazione, su www.lifegate.it, che è questo sito che io seguo molto, mi piace tantissimo, a livello di informazione è molto molto interessante, di qualunque cosa si parli, attualità, molto bravi. Economia, tutto. Lifegate.it. Mi ha colpito un titolo: se non mangeremo meno carne, addio salvaguardia del clima. perché noi vegani e vegetariani stiamo così sulle balle, ci danno dei talebani quando non lo siamo, perché anzi è l'esatto contrario. Non c'è solamente una questione, no, è una questione di buon senso, anche perché poi io detesto anche questa definizione, io sono vegano, io sono vegetariano, io non mi sento, cioè non è una questione di identità, è una questione di buon senso e di scelta. Per molta gente basterebbe anche soltanto ridurre il consumo di carne, però interessante da questo punto di vista è l'articolo a cui tu ti riferisci, perché uno dice: ma che c'entra il consumo della carne con il clima? No, esatto, perché tutti dicono, io difatti stavo dicendo, dottore, dica. Tutti dicono: ah, vabbè, lo fai perché ti fanno tenerezza gli animali, non vuoi che si vengano ammazzati, per motivi etici, perché soffrono, hanno paura, dolore, stress, panico, tutte le stesse cose. E questo è un aspetto, ma poi c'è anche un aspetto. E uno dice: ma perché qua l'obiezione è: ma tu sei un idiota, sei un essere umano, ma che cacchio te ne frega degli animali? E già qui, vabbè, ti fa capire quanto progresso morale c'è stato in questa persona. Esatto. No? Diciamo che degli animali non ce ne frega nulla nemmeno a noi, ma di te stesso ti frega mentre mangi una bistecca? Secondo uno studio svedese, solo se mangeremo meno carne bovina e latticini potremo centrare i target di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. Sì, perché la principale causa dell'aumento dei gas serra è l'allevamento di bovini. Perché purtroppo la tutela del clima non può prescindere da un cambiamento delle nostre abitudini alimentari. E questo non è che lo diciamo io, il dottor Vaira e quattro vegani imbizzarriti. Lo dice uno studio scientifico firmato dalla scuola politecnica svedese Chalmers di Göteborg, spero di averlo letto giusto, nel quale si sottolinea come le industrie agricole e dell'allevamento siano responsabili oggi di un quarto delle emissioni nocive per l'ambiente rilasciate sul territorio comunitario. È strano questo, perché sai, quando si parla di gas serra, cioè che ci hanno fatto una diciamo due scatole così, due con maroni, le bombolette. Sì, bravo, spray, la lacca. La lacca con il traffico, anche che effettivamente poi, per carità, le automobili, certo, con le loro emissioni sono una delle principali cause, ma la più alta, più ancora delle automobili, è l'allevamento di bovini. Assolutamente sì. Questo è un dato di fatto, è un fatto, quindi lo so che in qualcuno che non è ben informato può destare shock, quasi uno shock anafilattico, no? Esatto. Oh, come? Ma che stiamo dicendo, no? Tutte queste robe qua. Eppure uno basterebbe veramente informarsi, sai, se uno ha un pochino di buon senso si informa e scopre che effettivamente è così. Quindi dobbiamo consumare meno carne per poter aiutare il clima. No, ma addirittura dice questo articolo, l'analisi svedese sottolinea infatti che la produzione di un chilogrammo di carne bovina impone emissioni per circa 200 kg di CO2 rispetto ai 10 e ai 30 necessari per la stessa quantità di maiale di pollo, ad esempio. Qui loro fanno una distinzione ovviamente fra animali, sì, quindi voglio dire, sì, mettiamoci tutto dentro, vogliamo salvarlo sto mondo, vogliamo rispettarlo, vogliamo essere persone migliori. Bisogna pensare a lungo termine, perché io mi metto anche nei panni, no, di chi lavora nel business, no, della carne eccetera eccetera. Allora dobbiamo evitare di arraffare tutto subito, cioè dobbiamo anche nei panni di questa gente, bisogna pensare a lungo termine. Non vale la pena di dire: oh, ho perso qualche punto percentuale nella vendita del mio negozio. No, infatti. Devo riuscire a capire che se voglio sopravvivere io come specie umana non posso continuare a fare le stesse cose, quindi bisogna ripensare gli allevamenti. Allora, voglio solamente leggerti come chiude questo articolo, perché mi è piaciuto molto. Senza dimenticare che oggi il 40% della produzione annuale di grano, segale, avena e mais è destinata all'alimentazione di animali da allevamento, il che significa che l'umanità preferisce far passare enormi quantitativi di cibo attraverso gli stomaci delle vacche anziché mangiarlo direttamente. Secondo diversi studi, la desertificazione, il problema della povertà nel mondo, hanno delle correlazioni fortissime con l'allevamento. Quindi, signori allevatori, dobbiamo ripensare un pochino le cose, bisogna, sì, fare le cose un po' più pensando a lungo termine e farle un po' come si facevano una volta, che si lasciavano gli animali liberi al pascolo e che non si forzava un sistema naturale, un equilibrio naturale che l'uomo è quello che ha contribuito a sfasciare. Detto ciò, perché parliamo di queste cose importanti? Non sai perché? Chiedimi se sono felice significa io mi sto chiedendo, esatto, se io cane, cioè tu mi devi chiedere, a me cane, mi devi chiedere se sono felice, no? Il mondo della prospettiva del cane. Però questo esercizio, no, del mettersi nella prospettiva dell'altro, causa una espansione di coscienza, cioè, certo, pian piano uno comincia a chiedere se è felice il partner, se è felice appunto il proprio animale, se sono felici gli altri, se sono felici gli altri animali. Chissà se lo chiedono. Qual è il mio contributo in questo mondo? Quale traccia posso lasciare? Perché purtroppo quella quel famoso atteggiamento della serie che, ma a me che mano fotta, esatto. È una cosa che ha retto per un certo periodo, ma non possiamo più pensare in questo modo, non ce lo possiamo neanche più permettere. Quindi a me piacerebbe che chi ci sta ascoltando si domandasse se stesso se è felice e cosa lo rende felice, ma poi che lo chiedesse alle persone più vicine, che non so, andasse dalla mamma, dal papà, perché è una cosa, è una domanda che non si fa mai. Sì, sei felice? Chissà. Sei felice soprattutto, che cosa ti può rendere felice? Ma sai, come a me abbiamo... piacerebbe, sai chi piacerebbe chiedermi se è felice? Chi? A Cruciani. Ciao Cruciani, il nostro mito, il nostro sponsor, agevolatore, il nostro sponsor. Grazie chissà Giuseppe se ci Cruciani risponde. E la Zanzara. No, ti ricordi che abbiamo cominciato proprio con questa domanda, no? Cioè, il punto principale cos'era? Smettere, il titolo dell'articolo di Focus era: avere un atteggiamento negativo non va bene per il cane, perché non soltanto trasmetti tensione nel guinzaglio, ma la trasmetti anche in modo emotivo. Certo. E quindi ci siamo chiesti: come facciamo a non avere un atteggiamento negativo? Verso chi? Verso il cane o verso di me, amore? Verso il mondo occidentale. Verso il cane e verso di me, che c'entra? Così siamo una coppia. Trovati. Come mettere in crisi il dottor Maier in un secondo? Basta sbattere gli occhioni con le ciglia lunghe, con un po' di rimmel. Allora, quindi, come facciamo ad avere un atteggiamento positivo? Come facciamo ad intervenire sulle nostre emozioni? Dicevamo che possiamo intervenire dall'esterno con qualcosa che ci condiziona, come per esempio fammi avere più soldi, mi porti in montagna, mi fai mangiare tal cosa, questo mi rende felice, ma questo è piacere, non è felicità. Oppure cosa? Oppure con l'arricchire l'anima, il cuore, quindi tutta la parte spirituale. E io voglio dire questa cosa che mi è piaciuta. Quando io ti ho chiesto tempo fa, eravamo in macchina, mi ricordo, ho detto: Madonna, Angelo, dico, ma com'è che nei tempi di oggi la gente è sempre depressa, cioè gli attacchi di panico? Io mai sentito parlare di attacchi di panico quando ero piccola. Oppure la pillola per dormire perché non dorme più e c'ha l'ansia. Perché? Perché succedono queste cose? E tu mi hai dato una risposta che mi è piaciuta molto, che credo che sia forse la risposta più giusta per il merito, perché noi non siamo solo corpo, siamo corpo e spirito. Negli anni voglio dire la società ha fatto in modo che ci si dimenticasse che c'è anche una parte spirituale. Beh, da diciamo, io adesso non so se c'è un progetto complottista dietro. Ma sì, sono tutti progetti complottisti. No, però c'è da dire questo, no? Gli economisti dell'Ottocento si sono detti a un certo punto: qui dobbiamo avere una massa che consuma, quindi facciamo in modo di creare delle scuole che possano permettere a queste persone di acculturarsi e capire quanto è importante comprare per la nostra economia, e cerchiamo di despiritualizzare tutto, no? Quindi c'è tutto materia, quello che ti fa felice, qualcosa che tu puoi comprare, questo è l'inganno e alla non base. È così, e non è così. Allora, quello che succede è che la depressione è necessaria. La depressione sveglia, la depressione ti dice: porca miseria, ma è ovvio che tu ti deprimi, perché non è tutto qui, qual è il senso di tutto questo? Non è che c'è soltanto materia più. E basta, certo. Perché è ovvio che poi, se uno ci pensa un attimino, dice: cacchio, mi deprimo perché c'è tutto. Guarda che su questo discorso basta pensare che ci sono dei momenti ciclici che in Italia decidono se mettere il crocifisso nelle aule oppure no, o sì o no, e non so neanche se c'è più l'ora di religione. Che vabbè, già questo, adesso andiamo a toccare piccole argomenti. Andiamo a toccarli. Stiamo parlando di palle in frasca. No, non è di palle in frasca, scusami. E non mi contraddire, eh? No, prego Celentano, ma chi si, cioè, non mi permetterei mai. Guarda, sono stufa, eh. Guarda che non ne posso più, capito? No, parliamo di felicità significa avere senso nella propria vita, no? Quindi qual è uno dei modi che gli psicologi ti dicono, cioè come puoi essere leader emotivo del tuo cane anche per te stesso? Cioè, vuoi cambiare un'emozione, come fai? Perché poi ricordiamo un'altra cosa importante. L'emozione è qualcosa che viene condizionato da stimoli, no? Da qualcosa. Passato quello stimolo, tu ne hai un'altra. Poi c'è l'umore, che è quello con cui ti svegli al mattino. Io mi sveglio sempre allegra. Ok, però sai, qualche volta cambia l'umore, qualche volta ti senti un po' così, a volte un po' cos'ha, e ti dura per qualche ora, addirittura per qualche giorno. E l'umore è condizionato dalle emozioni che tu decidi e scegli di provare, perché si possono allenare le emozioni. Io posso allenare la mia parte emotiva invece di andare in palestra a fare i muscoli. Esatto. Io posso addirittura allenare le mie emozioni. Come faccio? Falda. Basta porre la mente in una situazione di curiosità, di felicità, e man mano che passa il tempo posso rendere i miei circuiti neurali sempre più preposti alla felicità. Poi l'umore diventa un tratto della personalità, cioè se uno ha sempre lo stesso umore o sempre per quello diventa poi un tratto della personalità. Infatti dicono, quando arrivo io mi dicono: guarda come che gnoccola Celentano, poi sempre allegra, eh? Ecco, molto, cioè io non so come tuo fidanzato, non so se prenderla bene questa roba qua. È molto allegra la Celentano. Dobbiamo chiudere, grazie ancora che siete stati con noi questa domenica. Scriveteci. Ciao. Chiedimi se sono felice, ciao.